sonare. Ribon Veneto può sonare. Irine Veneto può sonare. Ribon Veneto può sonare. Chora curva tirtica comuna e ama fogna. Chora curva tirtica comuna e ama fogna. Ai we jaminga ayati ya wailani kulimina anu nyemina iribo mbeleto mbosona irine mbeleto mbosona ikine elika sokado nyose Kodi kango nine nagarwela ikene kini Kodi kango nine nagarwela ikene kini Soka doisha furorina Iribo mbeleto mbosonare Irine mbeleto mbosonare Iribo mbeleto mbosonare Chora kurba tirtiga kumbuna Ayama fauna ayama Chora kurba tirtiga kumbuna Ayama fauna Ai wija minga ayati ya wailani Kulimina anu nyemina Iribo mbeleto mbosona Ikadoli kirfero goyme Ikadoli kirfero goyme Chora kurba tirtiga kumuna ayama fauna ayama Ai wija minga ayati ya wailani Kulimina anu nyemina Mbeleto mbosonare